Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, ogni tanto in questa trasmissione parlo di mostre, continuerò a farlo anche se questa sera vi presento un libro molto critico nei confronti delle mostre con il titolo perentorio, Contro le mostre. Gli autori sono Tommaso Montanari, che è uno storico dell'arte a Napoli, e Vincenzo Trione, che insegna arte e media all'Università Yulm di Milano. Il libro è pubblicato da Einaudi, 166 pagine, 12 euro. Il titolo, come vi dicevo, è molto chiaro e senza appello. Secondo gli autori, in Italia si fanno troppe mostre. Addirittura scrivono che c'è una marea montante di mostre brutte, malfatte, furbe, sciatte, approssimative, raccogliticce, imposte da società di produzione private e subite da amministrazioni pubbliche allo sbando. La critica, come sentite, è severa, ricca di riferimenti attuali. Ma che cosa c'è di male nelle mostre? Soprattutto, spiegano gli autori, la riduzione delle mostre, che dovrebbe essere uno strumento di diffusione culturale, a spettacolo. Scrivono infatti Trione e Montanari: le mostre non devono far riflettere, educare, insegnare qualcosa, devono essere spettacolo, distrarre, far divertire, come un qualsiasi reality. In una società che tende a livellare tutto e eliminare ogni gerarchia, le opere d'arte sono ridotte a semplici strumenti di comunicazione di massa, come la moda, i film, i programmi televisivi. E le responsabilità per questa situazione sono diffuse. E l'alibi della diffusione, che magari si potrebbe ottenere grazie a questo strumento della cultura, è solo un equivoco, come appunto spiegano gli autori. E così il fenomeno degenera e i visitatori che poi fanno la coda per entrare in una mostra trovano spesso solo prodotti di bassa qualità. Ma il mondo delle mostre è tutto da buttare via? Lo chiediamo a uno degli autori. Buonasera a Vincenzo Trione. Buonasera a lei. Vincenzo Trione, in questo libro che avete scritto con Tommaso Montanari, una delle prime affermazioni riguarda uno dei grandi autori, uno dei mostri sacri della storia della cultura dell'arte italiana, cioè Cesare Brandi, che già nel 1968 scriveva che in Italia siamo assediati da un'infestante proliferazione di mostre evento di scarso o nullo valore culturale. Insomma, c'è una tradizione tutta italiana nel fare cattive mostre. Come ve lo spiegate? Ma sicuramente sia Cesare Brandi che di lì a poco Federico Zeri, che parlava di mostre e mostriciattole, hanno stigmatizzato un fenomeno che è prevalentemente italiano. Siamo in un paese nel quale il pubblico sembra, con un gesto quasi pilatesco, aver abbandonato, abdicato alla capacità di orientare anche alcune scelte. Il privato ovviamente spesso ha occupato degli spazi lasciati dal pubblico, con società for profit che si trovano a monopolizzare il sistema delle mostre italiane. Il risultato è un'anomalia internazionale, cioè l'Italia probabilmente è l'unico paese a livello mondiale nel quale le mostre vengono programmate con tempi rapidissimi, non ci sono spesso grandi partnership internazionali, le nostre mostre non sono itineranti, spesso sono organizzate frettolosamente. Spesso si insegue soltanto un successo di facciata, il mito dell'evento per l'evento. Credo che tutto questo, che in Italia sembra oramai una condizione naturale, se lo confrontiamo con quello che succede, per ipotesi, in Francia, in Inghilterra, ma anche in Spagna, apparirà assolutamente incomprensibile e inaccettabile. Ma questo successo che hanno le mostre evento, le mostre blockbuster, come vogliamo chiamarle, non è che corrispondono un po' allo spirito del tempo, nel senso che oggi come oggi si cerca di fare, si tende a fare quello che un po' fanno tutti, per cui per esempio si va nei musei quando si è sicuri che ci vanno tutti gli altri, cioè nelle domeniche in cui non si paga. Sì, sicuramente c'è questo rischio, cioè questa, in fondo è vero, è lo spirito del tempo, però secondo me sarebbe opportuno distinguere non tanto tra la passeggiata in una mostra o in un mall, ma tra una passeggiata in una mostra ben fatta e una malfatta. Ovviamente qui non si tratta di pensare mostre soltanto per specialisti o iperelitarie, si tratta al contrario di pensare mostre che da un lato abbiano una solidità di ricerca, si fondino su una solidità di progetto, che indichino anche un avanzamento nella conoscenza nel percorso di un determinato artista o di un'area culturale, ma insieme siano coinvolgenti, emozionanti, che consentano al pubblico di uscirne sia diciamo dove il docere delectando, cioè di imparare e di divertirsi, vengano saldati. Questo credo che sia un po' l'obiettivo. In Italia ci sono anche alcuni casi interessanti da questo punto di vista. Cito tra i tanti una mostra su Giotto che era stata fatta a Palazzo Reale a Milano circa 2 anni fa, curata da Mario Bellini, che secondo me è stata una mostra esemplare proprio per aver saldato il rigore critico con una dimensione anche in qualche modo spettacolare. Sì, lì se ne era occupato anche Pietro Petrarò, cioè un grande storico dell'arte. Sì, Voi infatti, anzi in particolare lei nel capitolo che ha scritto, smonta un pochino quello che chiama l'equivoco educativo pedagogico. Allora io le voglio fare questa domanda, ma insomma, vedere una mostra con una brutta mostra con un Van Gogh non è meglio che non vederne nessuna? Questo dipende ovviamente dalle prospettive. Sono state fatte anche delle ricerche approfondite sulle conoscenze che i visitatori traggono da visite a mostre nelle quali non c'è nessuna contestualizzazione, per esempio, delle opere. E spesso il risultato è di un'immediata seduzione, il rapporto con immagini più o meno efficaci, ma svuotate di senso. Nel libro io cerco di essere molto severo nei confronti, da un lato, delle mostre come quelle per esempio di Palazzo Marino, nelle quali viene esposta una singola opera senza nessuna contestualizzazione. Sarebbe quasi paradossale pensare che un'opera di Mantegna esposta a Brera è dimenticata e non vista. Se viene esposta come un feticcio sacro, una Madonna Pellegrina, si formano file chilometriche. Ma sono anche molto severo nei confronti per esempio delle mostre senza opere. E questo è un fenomeno pervasivo e tutto italiano, di mostre nelle quali si ricorre a tecnologie avanzate e non c'è più l'opera d'arte, ma c'è una pura spettacolarizzazione. Lei non crede che queste mostre senza opere d'arte, che normalmente io non vado a visitare, non siano uno strumento per avvicinare, per esempio, non so, i ragazzi, i giovani, a un mondo al quale altrimenti non si potrebbero avvicinare o non si vorrebbero avvicinare? Sì, il problema è se ci fosse un'operazione corretta e a quel punto anche di carattere cinematografico, puramente spettacolare, sì. Invece spesso ci si traveste e ci si nasconde dietro anche un po' un imbroglio pedagogico, perché sono mostre che non sono fondate su nessuna conoscenza, quindi i ragazzi è come se andassero a vedere un grande Circo Barnum. Io ho un po' di diffidenza rispetto a questo fenomeno. Credo che una mostra sia diversa rispetto alla visita a una mostra sia diversa rispetto a una visita in una sala cinematografica o in un parco giochi. E questo si colloca all'interno di un'analisi che voi fate, in particolare lei, di un tema drammatico, diciamo, di cui ci si deve occupare e in fondo di cui questa trasmissione è anche una contro la quale un'arma per combattere, nel senso, mi riferisco cioè alla decadenza della cultura, al declino della cultura. Lei a un certo punto usa l'espressione l'incultura dell'optional. Ecco, in una fase storica in cui appunto assistiamo a questa decadenza cultura, come pensate che si possa rivalutare e riabilitare il ruolo della mostra scientifica, eliminando altre forme di mostre più spettacolarizzate che però hanno più successo? Ma in realtà quando parlo di cultura dell'optional, che è una definizione presa in prestito da Claudio Magris, mi riferisco a quelle esperienze nelle quali per esempio l'antico viene posto in risonanza con il contemporaneo, viceversa, o la moda entra all'interno di siti storici, con un rischio enorme di creare una sorta di pareggiamento che non aiuta a comprendere né l'arte antica né l'arte contemporanea. Ecco, questa idea di trasformare la mostra in un evento per l'evento, dove ciò che conta sono soltanto i numeri, non quello che la mostra lascia, o le ragioni da cui una mostra nasce, ecco, questo mi preoccupa. Io vorrei che una mostra non si decidesse di fare una mostra prima di aver studiato, frequentato un'opera. Cioè sarebbe bello che l'arte non fosse un mezzo ma un fine di una mostra. Certo, esistono casi rilevanti in Italia, cioè non, non, ma anche all'estero. Cioè, io cito per esempio una mostra che ha avuto un enorme successo sia in Francia che negli Stati Uniti, che è una mostra sugli Stein, sulla famiglia degli Stein, che è una mostra che ha richiesto anni e anni di preparazione e poi è diventato anche un successo popolare. Ecco, a me farebbe piacere che le mostre andassero in quella direzione. Ecco, io non vorrei seminare zizzane fra i due autori, però questa sua posizione mi sembra che sia diversa. Lei dice, ha spiegato anche qui, bisogna farle bene, ci sono delle responsabilità degli enti locali, degli assessori, dei musei, però evidentemente è favorevole al fatto che si facciano delle mostre fatte bene. Montanari mi sembra un pochino più estremista, forse per lui le mostre non le farebbe per niente. O mi sbaglio? Tommaso Montanari in realtà sicuramente ha un atteggiamento più radicale da questo punto di vista, però anche egli non esclude il fatto che le mostre, quando sono necessarie, abbiano un senso. Cioè, mostre come, cito un esempio classico che so che è anche in qualche modo familiare, la grande mostra di Roberto Longhi dedicato a Caravaggio, quella è stato un esempio di una mostra che ha consentito di rileggere Longhi e di guardarlo come non si era mai fatto fino a quel momento. Ecco, casi di questo tipo secondo me vanno recuperati, diventano un po' un modello. Però è un modello che risale a 65 anni fa, se non mi sbaglio. Sì, però ci sono stati anche casi importanti, per esempio nel libro citiamo anche più recenti, citiamo Serial Classic, la mostra curata da Settis per Fondazione Prada, che è stata una mostra molto più recente che ha avuto un suo senso. Il punto delicato è che per esempio Montanari nel libro sottolinea più volte è il tema della conservazione delle opere d'arte. Cioè, noi ricordiamo una battuta che ha fatto Francis Haskell, che probabilmente è stato il primo grande storico dell'arte che si è misurato col tema delle mostre, il quale diceva: proviamo a guardare in alto, sulle nostre teste in questo momento stanno sfrecciando opere di Canaletto, di Caravaggio, di Van Gogh, e nessuno di noi si preoccupa di queste opere. Nel momento in cui dovesse cadere uno di questi aerei ne capiremmo il danno per la nostra cultura. Ecco, probabilmente bisognerebbe essere molto attenti quando anche nella politica dei prestiti e della conservazione delle opere d'arte. Poi l'aspetto su cui noi insistiamo, e soprattutto Montanari insiste nel libro, è cioè non vorremmo che le mostre sottraessero energia e attenzione a quel museo diffuso che è il nostro paese. Grazie a Vincenzo Trione, autore con Tommaso Montanari di Contro le mostre. Buona serata. Grazie a lei. Un autore lungamente citato nel libro di Montanari e Trione, esemplare dei delitti che si possono compiere in nome delle grandi mostre, è Picasso, protagonista tra l'altro di una mostra a Roma, alle Scuderie del Quirinale, che si intitola Picasso tra cubismo e classicismo, 1915-1925, la mostra è curata da Olivier Bergruen ed è aperta fino al 21 gennaio dell'anno prossimo. E nell'ambito di questa mostra viene esposta a Palazzo Barberini il sipario che Picasso dipinse per lo spettacolo Parade. Il catalogo della mostra è Schirà. A proposito di Picasso, vi ricordo il libro di Gabriele Guercio, Il demone di Picasso, creatività generica e assoluto della creazione, pubblicato da Quodlibet, 244 pagine, 18 euro. Qui Picasso diventa il simbolo di una svolta particolare, quella di una creatività ormai frammentata e dispersiva, come quella alla quale assistiamo in questi anni. Picasso, scrive Guercio, è il pioniere di una sregolata disseminazione del fare creativo che continua tutt'oggi a connotare la pratica artistica. Però, aggiunge, la storia di Picasso non si riassume in una festosa apoteosi di incontrollate creatività. L'artista deve essersi accorto che gli atteggiamenti e le pratiche troppo casualmente creative potrebbero avere molto poco da spartire con la creazione alla quale egli aspira e che attiene alla precisione della pièce realizzata e allo stupefacente manifestarsi di qualcosa che prima non c'era. E quindi attraverso Picasso si indaga appunto sul concetto, oggi forse abusato, di creatività e sulle forme che questa può assumere. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 Mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Abbiamo parlato del chiasso e del frastuono cui danno vita la società dello spettacolo e la società di massa che impone a tutti di stare costantemente sotto i riflettori. Allora parliamo di due situazioni completamente all'opposto che rappresentano appunto uno scudo contro il frastuono e contro i riflettori che sembrano dominare la società attuale. Lo facciamo con due libri dal titolo molto simile, Elogio del silenzio ed Elogio dell'ombra. Il primo è di uno scrittore americano, John Bignet, si intitola Elogio del silenzio, appunto, come sfuggire al rumore del mondo, è pubblicato dal Saggiatore, 176 pagine, 11 euro ed è tradotto da Nike e Agatha La Bionda. L'autore definisce il silenzio come una misura delle limitazioni umane. È un bene che oggi è diventato spesso un autentico lusso, come quello che le compagnie aeree vendono a caro prezzo nelle sale VIP degli aeroporti. Ma proprio sull'aereo il silenzio può assumere anche una valenza drammatica, per esempio quando ci si trova in condizioni di emergenza o di pericolo. Insomma, le valenze connesse al silenzio possono essere contraddittorie, per esempio l'angoscia che può associarsi al silenzio, che si accompagna alla solitudine. E nel libro troviamo vari esempi e testimonianze di queste situazioni, spesso con conclusioni sorprendenti, per esempio questa di cui adesso ascoltate una testimonianza in queste righe, che riguardano l'attività per la quale ascoltate questa trasmissione, ossia la lettura. Possiamo considerare la lettura un dialogo silenzioso in cui ci introduciamo e da cui ci ritiriamo per valutare le posizioni dell'autore e trarre le nostre conclusioni su di esse? Non sempre. La lettura è un duello, un dialogo fatto di affondi e parate. A chi non è mai accaduto, trasportati da una narrazione persuasiva e da frasi ben costruite, di perdersi nella coscienza di un'altra persona per poi ritornare alla realtà a causa dello squillo di un telefono o qualche altra interruzione? E a ben a pensarci, non è la lettura stessa un'interruzione? Perlomeno del nostro essere presenti a noi stessi. E qualcuno che bussa alla porta non è come uno schiaffo che ci sveglia da una sorta di sogno, come un walkie-talkie all'interno del funzionamento del quale per parlare bisogna premere un bottone e per ascoltare bisogna lasciarlo. Anche la lettura richiede l'alternarsi della voce dell'autore e della voce della coscienza del lettore. E a proposito di silenzio, questo di diverso genere, un silenzio carico di ritrosia ma anche di vergogna, vi segnalo il libro di un grandissimo scrittore ungherese, Sándor Márai, l'autore de Le Braci, di cui Adelphi pubblica un libro scritto alla fine degli anni 40 ma pubblicato postumo nel 2013. In vita Márai ne aveva pubblicato soltanto una parte di questo libro. Il libro si intitola Volevo tacere, 148 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Laura Sgariotto. Nel libro lo scrittore parla della condizione del suo paese tra l'invasione nazista del 1944 e quella sovietica del 1945, alla quale seguì l'esilio dello scrittore stesso nel 1948 verso gli Stati Uniti. E di quegli anni, lo scrittore dice, avrebbe voluto tacere, ma, e queste sono le prime parole del libro, il tempo mi ha chiamato e ho capito che non si poteva tacere. Ho anche capito in seguito che il silenzio è una risposta tanto quanto la parola e la scrittura, a volte non è nemmeno la meno rischiosa. La crisi inizia quando lo scrittore fa un esame di coscienza e non riesce ad assolversi per l'indifferenza con la quale aveva vissuto il consolidamento del potere comunista, e scrive: è capitato anche a me di pensare che si possa pretendere a buon diritto da coloro che si occupano dell'educazione del governo, dunque gli scrittori, gli insegnanti, gli artisti, i politici, gli statisti, che oppongono una resistenza eroica, che siano ad esempio attraverso la loro vita e le loro opere. Ma si tratta di una questione molto difficile, riconosce, ed è una pretesa complicata. Il talento e il ruolo impongono davvero una sorta di ascesi? E poi, se si rompe il silenzio, che cosa si deve dire? E questo è appunto il tema di questo libro, che si sviluppa sollevando, come capite, brucianti interrogativi morali per situazioni nelle quali non vorremmo mai trovarci. L'elogio dell'ombra invece è tessuto da uno dei maggiori scrittori del Novecento, Jorge Luis Borges, nel libro così intitolato Elogio dell'ombra, pubblicato da Adelphi, 158 pagine, 16 euro, con testo originale spagnolo e traduzione di Tommaso Scarano. Questo è un volume diverso, soprattutto il quinto scritto dall'autore, troviamo anche dei brani in prosa, è preceduto da un prologo dello stesso autore e si conclude con l'elogio appunto dell'ombra, dal quale vi propongo queste righe. Questa penombra è lenta e non fa male. Scorre per un dolce declivio e assomiglia all'eternità. I miei amici non hanno volto. Le donne sono come erano tanti anni fa. Ogni angolo di strada può essere un altro. Non ci sono lettere sulle pagine dei libri. Dovrebbe sgomentarmi tutto questo. E invece è una dolcezza, un ritorno. Delle generazioni di testi che sono nel mondo, ne avrò letti solo alcuni. Quei pochi che continuo a leggere nella memoria, a leggere e a trasformare. E nel libro troveremo molti altri temi ispirati a figure, per esempio Eraclito, autori come Joyce, luoghi come Cambridge di Harvard, cari allo scrittore, compreso naturalmente il libro che troviamo per esempio nei versi dedicati a un lettore, dove Borges sottolinea come leggere sia più importante che scrivere. Scrive: altri si vantino delle pagine che ha scritto, io vado fiero di quelle che ho letto. Abbiamo cominciato a parlare male delle mostre, finiamo parlando bene di una mostra alla Triennale di Milano che è in corso fino all'11 marzo dell'anno prossimo, dedicato a Ettore Sozzas, There is a Planet, dedicato al grande architetto, curato da Barbara Radice, con il catalogo di Mondadori Electa. In questa occasione vi segnalo il libro di Ettore Sozzas, Per qualcuno può essere lo spazio, pubblicato da Adelphi, 198 pagine, 13 euro, curato da Matteo Codignola, che è una raccolta di scritti molto eterogenei che documentano l'inesauribile curiosità dell'artista, capace per esempio nel primo pezzo del 1940 di descriverci un pezzo di Stati Uniti dai colori dei treni. Perciò il curatore avverte: il libro che tenete in mano induce allucinazioni gravi anche se non serie, e ci spiega come anche quel viaggio dal quale parte il libro di Sozzas, il viaggio negli Stati Uniti, fosse stato in un certo senso anch'esso un'allucinazione dell'autore. E a questo punto il confettino. Salutiamo la nuova collana di Battello a Vapore dedicata ai piccoli cavalieri di Re Artù. Sono usciti due volumi scritti e illustrati da Maria Gianola, SOS Grifone ed Excalibur 6 Mitica, 126 pagine, 12 euro, nei quali troveremo un Merlino ormai scomparso e un Artù pensionando che lasciano spazio a nipotini e bambini intraprendenti. Ultimi arrivi. Cominciamo con un mito del rock, Vasco Rossi, Vasco XL, 40 anni di canzoni, con i miei commenti. Questo è il libro di Mondadori, 530 pagine, 20 euro, dove troveremo tutte le canzoni di Vasco dal 1977 a oggi, ossia 176 testi scritti da lui, escludendo quelli scritti per altri. Vasco spiega all'inizio di questo libro uno dei maggiori successi, Siamo solo noi, e poi presenta i testi appunto delle canzoni con alcuni brevi commenti, per esempio questo dedicato alla propria generazione, stupendo è la canzone, e lui scrive: dedicata a quella generazione, la mia, che diceva di voler cambiare il mondo e di volere l'immaginazione al potere e che poi è finita a lavorare per quello stesso potere che tanto criticava. Oggi è cambiato tutto, naturalmente. Poi vi segnalo il romanzo di un'autrice di Spalato, Olia Savicevic, che si intitola Dio Cowboy, è pubblicato dall'Asino d'Oro, 236 pagine, 16 euro, ed è tradotto da Elisa Copetti, che è un romanzo alla ricerca delle ragioni del suicidio del fratello della protagonista, la quale è rientrata in Dalmazia, e questa ricerca diventa un'indagine su un mondo che ancora non ha superato del tutto il trauma della guerra. Poi vi segnalo un autore francese, Christian Crayon, che ha scritto Un respiro nell'ombra, pubblicato da Spelling e Kupfer, 410 pagine, 19 euro, tradotto da Margherita Belardetti, che mette in scena un noir d'ambientazione lacustre francese su un vecchio e orrendo delitto che 30 anni dopo sarà risolto proprio da uno dei testimoni di allora. Infine la prova di Stefania Giannotti, un architetto ormai convertitasi alla cucina, troppo sale, un addio con ricette, Feltrinelli 184 pagine, 16 euro, un evento tristissimo e traumatico, spinge la protagonista a scoprire appunto la cucina. E qui troviamo quella storia, le riflessioni della protagonista, inframmezzate con tante ricette, quelle che forniranno i menu alla trattoria milanese che nel frattempo la stessa autrice aveva rilevato, dando una svolta alla propria vita e creando una rete di amicizia e complicità che gestiranno alla fine proprio l'antica trattoria. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibrochiocciola24.it, e il nostro sito www.la24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.